Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Salve, un caro saluto alle persone in ascolto. Questa è Restiamo Animali, una trasmissione animalista, antispecista e vegan che si occupa dell'attualità, dello sviluppo del pensiero, del mutamento degli stili di vita, mettendo al centro dell'attenzione gli animali non umani. Ci muoviamo nell'ottica della costruzione di una società di giustizia senza confini di specie. È la puntata numero 750 e parleremo di star della musica contemporanea, di orsi e delle azioni, gli oceani ed elefanti. Cominciamo parlando di Moby, musicista newyorkese fra i più noti sulla scena internazionale e grande amico delle cause animaliste. Moby ha appena fatto uscire un nuovo album, Always Centered at Night, che arriva a 25 anni da Play, il disco che lo ha reso noto in tutto il mondo, con 12 milioni di copie vendute. Moby ha annunciato che i ricavi del tour celebrativo di Play saranno interamente devoluti a organizzazioni animaliste. Intervistato da Marta Blumi Tripodi per il Corriere della Sera, il musicista ha spiegato così la sua scelta. Tutti gli esseri viventi hanno diritto a non soffrire. Oltretutto, dietro a un innocente cheeseburger si nascondono temi come la salute, il cambiamento climatico, l'antibiotico resistenza, le pandemie. E poi, io odio andare in tour. Perciò il mio manager mi ha convinto con questo stratagemma. Sapeva che l'avrei fatto per una buona causa. E quando la giornalista gli ha chiesto, lei ha detto spesso che grazie all'attivismo è diventata una persona migliore, Moby ha risposto: per cambiare il mondo devi prenderti cura innanzitutto di te stesso. Non puoi angosciarti per ciò che non puoi controllare, ma puoi concentrarti sulle piccole cose, agendo in prima persona. Torniamo a parlare di orsi trentini e di elezioni, per un fatto un po' particolare avvenuto durante il voto dell'8 e 9 giugno scorsi. A Caldes, in Val di Sole, un orso si è presentato poco fuori dal seggio, della sezione di Bozzana. Il luogo non è distante da dove il 5 aprile dello scorso anno era stato ucciso da un'orsa Andrea Papi. Un fatto che ha accelerato fortemente le politiche anti-orso della provincia trentina. L'orso elettore, chiamiamolo così, naturalmente non intendeva in realtà votare né disturbare il processo elettorale. È probabile, come al solito, che sia stato attirato dal cibo, cioè da qualcosa di commestibile disponibile nei cassonetti del paese. L'orso comunque non ha creato particolari problemi, anche se i carabinieri presenti al presidio elettorale hanno dovuto chiedere al personale di non uscire, allertando intanto il corpo forestale. E tuttavia questo episodio ha spinto il sindaco di Caldes, Antonio Maini, a chiedere, aperte virgolette, la linea dura a chi ne ha facoltà. Non è tollerabile questo livello di confidenza degli orsi, chiuse virgolette. Insomma, si è subito paventata anche stavolta la possibilità di uccidere l'orso, di condannarlo a morte solo per essere apparso alla vista di persone umane. Netta la replica di Love, Lega Anti Vivisezione. Non possiamo tollerare, ha detto Massimo Vitturi, responsabile per l'AV del settore animali selvatici, che ogni contatto umano-orso possa diventare un pretesto che la provincia di Trento utilizza per nuove condanne a morte degli orsi. Incontrare un orso in Trentino, ha aggiunto Vitturi, deve ormai essere considerato un evento ordinario. Ciò che invece è ancora straordinario è la mancanza di informazioni che determina comportamenti errati da parte delle persone che entrano accidentalmente in contatto con gli orsi. Si tratta, insomma, di gestire la convivenza senza vagheggiare improbabili eradicazioni dell'orso e senza speculare politicamente sulla paura dei cittadini, oltretutto fomentata e magari promettendo misure drastiche, arresti, esecuzioni più o meno sommarie, e intanto evitando di prendere quelle misure di educazione e di prevenzione che darebbero davvero maggiori garanzie di sicurezza a tutti, animali e umani. L'esigenza di trovare nuove, più efficaci forme di convivenza è dettata anche dalle reali condizioni esistenti sul campo. La stessa provincia di Trento ha reso noto di recente il suo rapporto Grandi Carnivori 2023, dal quale risulta che in provincia vivono 98 orsi, in crescita rispetto agli anni scorsi, e 27 branchi di lupo, per un totale di circa 150 individui, più alcuni che vivono in solitaria. Una popolazione questa stabile rispetto all'anno precedente. L'assessore provinciale alle foreste, caccia e pesca, Roberto Failoni, nel commentare il rapporto, parla anche lui di prevenzione e però mette sullo stesso piano queste misure con l'eliminazione fisica degli animali. La sicurezza delle nostre comunità di montagna, ha detto l'assessore, è una priorità assoluta e le misure adottate, come la rimozione degli esemplari pericolosi e l'implementazione di cassonetti anti-orso, e opere di prevenzione accanto alla distribuzione di cani da guardiania dimostrano la nostra determinazione a trovare un equilibrio fra conservazione e sicurezza. In realtà la provincia di Trento in questi anni si è distinta per la sua continua caccia all'orso, per gli arresti di orsi, per le uccisioni di orsi, per le promesse di condanne a morte di orsi. In merito a questi animali, il rapporto specifica che la stima di una popolazione di 98 individui dell'età di più di un anno fa riferimento a un intervallo di confidenza, cioè a una oscillazione possibile fra 86 e 120 individui, mentre nel 2021 l'oscillazione andava da 79 a 103. Ancora più in dettaglio, nel 2023 sono state registrate 13 cucciolate, per un totale di 22 piccoli. Sono invece 8 gli esemplari di cui è stata accertata la morte. Di questi 2 sono stati uccisi da altri orsi. Uno è morto per cause non accertabili, a causa dei pochi resti ritrovati. Per 5, dice il rapporto, le cause non sono ancora note all'amministrazione provinciale. Questo dice il rapporto della provincia, ma è noto che ci sono molti sospetti sulle cause non conosciute che hanno portato alla morte di alcuni orsi, probabilmente fucilati dai cosiddetti bracconieri, nell'ambito di una campagna di odio che va avanti da molto tempo. To your lips to undernourished ego. Essere Animali è una battagliera organizzazione animalista che si è specializzata negli anni nella realizzazione di investigazioni coperte dentro allevamenti e mattatoi. Molti dei filmati ripresi clandestinamente in questi luoghi di tortura e di morte sono stati poi ripresi dalle televisioni e dai media nazionali, contribuendo a far crescere la consapevolezza sull'oppressione animale nella nostra società. Essere Animali non disdegna però anche iniziative più tradizionali, come la promozione dell'alimentazione vegana. Così anche quest'anno, per la 10ª edizione, si è tenuta la settimana VEG, con contestuale diffusione di ricette e la creazione di comunità online di sperimentatori. Secondo i dati diffusi dall'associazione, nel 2023 sono state oltre 26.000 le persone in tutta Italia a partecipare alla settimana VEG. Il 54% degli iscritti non aveva mai provato un'alimentazione vegana per più giorni e più del 60% è riuscito a mangiare 100% vegetale per almeno 5 giorni. Il dato più promettente è però l'ultimo, visto che l'88% ha affermato che avrebbe continuato, anche dopo la settimana di prova, a seguire un'alimentazione vegana. Good times for a change. See, the luck I've had can make a good man turn bad. So please, please, please, let me, let me, let me, let me get what I want this time. Haven't had a dream in a long time. See, the life I've had can make a good man bad. So for once in my life, let me get what I want. Lord knows it would be the first time. Lord knows it would be the first time. Si chiama Venice Declaration for Ocean Literacy in Action e si propone di promuovere la conoscenza degli oceani nelle sfere dell'istruzione, della scienza, della politica, dell'economia e della cultura. La dichiarazione è stata firmata durante la prima conferenza delle Nazioni Unite dedicata all'educazione sugli oceani. L'obiettivo, naturalmente, è spingere le comunità umane a rispettare l'ambiente marino e a preservare le culture dell'oceano in tutto il mondo. Un obiettivo certo pregevole, ma di non facile attuazione, se pensiamo che gli oceani sono sottoposti a forme di sfruttamento intensivo e risentono pesantemente del surriscaldamento climatico. Per incidere su questa situazione servirebbero interventi molto radicali. Interventi del genere però non sono in vista e quindi non c'è da essere ottimisti. Ha fatto eco a questa dichiarazione veneziana la dichiarazione di Rosalba Giugni, presidente della Fondazione Mare Vivo, nell'ambito di un'altra iniziativa dedicata agli oceani, a Roma. Giugni ha lanciato un appello spiegando che il mare è in grave pericolo e che la nostra vita dipende dalla sua salute. Ogni nostro piccolo gesto, ha aggiunto, conta. natura tutto è collegato. Galileo Galilei diceva che le cose sono unite da legami invisibili e che non si può cogliere un fiore senza turbare una stella. Per questo tutti siamo chiamati, ha concluso Giugni, a essere parte del cambiamento. Un cambiamento, aggiungiamo noi, che deve essere rapido e profondo. This river, you and I, underneath the sky that's ever falling down, down, down, ever falling down. Through the day, as if on an ocean, waiting here, always failing to remember why we came, came, came, wonder why we came. Sempre a proposito di ambiente marino e per rendere più chiare le forme di sfruttamento in corso e la loro gravità, può essere utile sfogliare un recente rapporto dedicato all'acquacoltura e realizzato dalla FAO, l'Organizzazione delle Nazioni Unite che si occupa di giustizia alimentare. Nel 2022, secondo questo rapporto, per la prima volta nella storia, l'acquacoltura ha superato la pesca di cattura. La produzione mondiale di acquacoltura ha raggiunto il volume storico di 130,9 milioni di tonnellate. Come si può ben notare anche dal lessico, gli animali acquatici nel pensiero corrente non hanno dignità di individui, sono considerati a peso, come stock di materiale edibile. Qualcosa davvero di sconfortante. Ma detto questo, resta che lo sviluppo dell'acquacoltura, secondo la FAO, che non è certo un'organizzazione animalista, e nemmeno ambientalista, testimonia, parole della FAO, la sua capacità di contribuire ulteriormente al soddisfacimento della crescente domanda mondiale di alimenti acquatici, ma anche, parole anche queste della FAO, che la futura espansione e intensificazione del settore dovranno porre in primo piano la sostenibilità e offrire vantaggi alle aree e alle comunità più bisognose. È difficile dire che cosa si intenda con parole come sostenibilità e vantaggi, ma leggendo fra le righe si intuisce che l'acquacoltura, anche per soggetti perfettamente integrati nel sistema dominante, è un comparto che suscita allarme in un quadro complessivo di degradazione progressiva degli ambienti marini. Forse non siamo ancora all'allarme rosso, ma gli scienziati del clima hanno messo in guardia da tempo lo scioglimento dei ghiacciai, l'innalzamento del livello dei mari, la liberazione di virus e batteri finora congelati sono minacce ormai incombenti. Agire per proteggere gli oceani, ancora una volta e questa è la conclusione, è un'urgenza. And you may find yourself in a beautiful house with a beautiful wife, and you may ask yourself, well, how did I get here? Letting the days go by, let the water hold me down. Letting the days go by, water flowing underground into the blue again. After the money's gone, once in a lifetime, water flowing underground. And you may ask yourself, how do I work this? And you may ask yourself, where is that large automobile? And you may tell yourself, same as it ever was, same as it ever was, same as it ever was, same as it ever was, same as it ever was, same as it ever was, same as it ever was. Water dissolving and water removing. There is water at the bottom of the ocean. Under the water, carry the water. Anche questa settimana abbiamo chiesto al nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni di dedicare una ricetta rigorosamente non violenta a uno dei temi trattati nella puntata. Vi ricordiamo che Gabriele Palloni è autore di numerosi libri, l'ultimo dei quali è Se vuoi essere sano, cucina vegano, edito da Newton Compton. Sentiamo che cosa ci propone. Il pasto gentile è un frigorifero senza crudeltà. E chi ha detto che una ricetta di mare deve essere a base di pesce? Questi filettini di tofu in crosta ne sono la prova. E fra i tanti vantaggi c'è quello di non dover stare attenti alle lische. Filetti di tofu in crosta di pistacchi. Gli ingredienti per 4 persone sono 500 g di silken tofu, un foglio di alga nori, 100 g di pan grattato, 50 g di pistacchi tostati, un ciuffetto di prezzemolo, un ciuffetto di aneto, uno spicchio di aglio, qualche rametto di timo e rosmarino, la scorza grattugiata di un limone, olio extravergine di oliva, sale e pepe. Tagliate il tofu a fette alte un paio di centimetri e lasciate congelare in freezer. Successivamente scongelate le fette di tofu immerse in acqua salata a temperatura ambiente. Nel frattempo preparate la panatura. In un mixer unite il pan grattato, i pistacchi, l'aneto, il timo sfogliato, il rosmarino e il prezzemolo. Unite 2 cucchiai di olio extravergine e la scorza di limone. Tritate il tutto e aggiustate di sale e pepe. La panatura dovrà mantenere una consistenza piuttosto grossolana. Una volta scongelati, con molta attenzione, pressate i filetti di tofu con le mani per far fuoriuscire tutta l'acqua. Coprite un lato dei filetti con l'alga nori. Fate delle leggere incisioni diagonali sul lato opposto e rosolate rapidamente in padella con poco olio e uno spicchio di aglio in camicia. Trasferite i filetti su una placca rivestita con carta forno, coprite la superficie del tofu con la panatura, premendo con le mani per far aderire. Cuocete in forno ventilato a 190 gradi per circa 20 minuti. Trascorso il tempo di cottura, sfornate e servite ben caldi. Chiudiamo con una notizia che arriva dal mondo scientifico, dall'etologia, e che ci fa almeno sorridere. Secondo uno studio basato sull'osservazione di 2 branchi selvatici in Kenya, pubblicato sulla rivista scientifica Nature, risulta che gli elefanti si chiamano l'un l'altro con l'equivalente di un nome specifico per ogni individuo. Questo studio, secondo i ricercatori, dimostra che gli elefanti non solo usano una vocalizzazione specifica per ogni individuo, ma che riconoscono e rispondono a un richiamo destinato a loro mentre ignorano quelli rivolti ad altri. Inoltre, la ricerca supporta l'idea che gli elefanti possano inventare nomi arbitrari per gli altri consimili. La prova di tutto ciò è nelle registrazioni fatte dall'associazione Save the Elephants nella riserva di Samburu e nel Parco Nazionale di Amboseli, in Kenya. Dopo aver sottoposto queste registrazioni a un software di analisi, si è giunti a individuare 469 diverse chiamate, con 101 elefanti che chiamano altri e 117 che ricevono tali chiamate. In pratica i ricercatori hanno osservato che un individuo si rivolge a un altro con un segnale specifico, lo chiama, usa un nome e questo nome non è necessariamente utilizzato da altri per rivolgersi allo stesso individuo. Tuttavia, l'elefante che riceve questo richiamo è in grado di distinguere quello a lui indirizzato e ignora quelli inviati ad altri elefanti. Queste osservazioni, secondo il professore dell'Università del Colorado, George Whitmire, supervisore dello studio, indicano che gli elefanti hanno una capacità di pensiero astratto. A dire il vero, lo sospettavamo già. Questa settimana è tutto, vi saluta la redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Roberta Marino, Gianluca Masala, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Zenone Sovilla e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento con Restiamo Animali è fra una settimana esatta, stessa ora, stesse onde. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.